Cari amici, Pietro Pancamo vi saluta e vi annuncia che stasera siamo in compagnia di Massimiliano De Santis, cioè un bravo poeta di Milano che si presenterà a voi subito dopo questo stacchetto musicale. Salve a tutti i radioascoltatori, mi chiamo Massimiliano De Santis, sono nato ad Alatri, un paese in provincia di Frosinone, e vengo da una famiglia di insegnanti. Mio padre è stato insegnante di lettere e mia madre di musica. Le mie passioni appunto sono proprio queste, la musica e la letteratura. Sin da piccolo ho avuto esperienze nell'ambito letterario e musicale. Ho studiato in conservatorio, flauto, e ho letto tantissimi libri dall'età di 12-13 anni. La mia famiglia è stata una famiglia che ha influito molto sulla mia vita e sui miei interessi. Anche il fatto di come era composta: avevo un nonno molto con un carattere molto forte, uno zio un po' folle, dei genitori abbastanza liberali. Questo tipo di famiglia mi ha insegnato sempre a rapportarmi alla diversità come a una fonte di ricchezza importante, cosa che ancora oggi nella mia attuale famiglia, quella che ho composto qui a Milano, cerco di rispettare, cioè la varietà delle persone, la varietà degli insegnamenti e dei punti di vista nella vita. Il fatto, appunto, dicevo, che i miei mi abbiano subito introdotto nel mondo artistico, letterario, musicale, è stato fondamentale. Io ho cominciato ad adorare i libri di Dostoevskij, di Chekhov, di Gogol, sono passato alla letteratura americana attraverso la Beat Generation, Hemingway, ho risalito un po' i secoli attraverso la letteratura francese e mi sono avvicinato lentamente alla poesia attraverso uno dei più grandi poeti del Novecento italiano, Eugenio Montale. Il rapporto che ho avuto sin dall'inizio dei libri è stato un rapporto di divieti, nel senso che mio zio, comprendendo la mia fame di letteratura, di conoscenza, ha cominciato a nascondermi i suoi libri, perché io non avendo i miei libri li rubavo nella sua biblioteca, e lui ha cercato attraverso lucchetti, chiavi, nuove biblioteche con serrature particolari, ha cercato di, appunto, di non farmi avvicinare, e ha creato esattamente l'effetto opposto. Quindi ho letto di tutto e questa lettura mi ha provocato un interesse fortissimo verso la realtà circostante e mi ha aiutato anche a trasformare quello che vedevo nei primi racconti, nelle prime poesie. C'è da dire che mio nonno aveva un albergo a Fiuggi e io passavo gran parte dell'estate in questo albergo. Naturalmente ero a contatto con tantissimi tipi di persone, soprattutto anziani, però c'erano anche i figli di questi anziani che erano genitori e c'erano i nipoti di questi anziani che avevano più o meno la mia età, quindi questa gente rappresentava tantissima parte degli italiani, perché venivano da tutte le parti d'Italia, tra l'altro, quindi ero a contatto con diverse forme di dialetto che comunque sollecitavano la mia immaginazione. Crescendo ho cominciato a studiare al conservatorio flauto traverso e composizione. Ho suonato nei primi complessi bandistici E poi ho creato un gruppo di rock progressive, abbiamo fatto anche un disco. E dopo questa esperienza ho avuto anche un sestetto di flauti e ho suonato come solista in ensemble d'archi, sempre nel Lazio. Queste esperienze mi hanno fatto capire che essere sul palco non era così importante. Ecco, io ho sempre sentito una voglia di scrivere, di dare il meglio di me non in tempo reale, ma con la freddezza della scrittura. Questi altri tipi di esperienza, come i viaggi che ho fatto sin da giovane, a 18 anni in Messico, 19 in California, da solo, in viaggi molto solitari, sperimentando conoscenze anche in maniera abbastanza selvaggia e belluina, prenotando macchine a noleggio e dormendo dove capitava, mi ha diciamo fatto scoprire altre parti di me, ha fatto scoprire altre parti di me. Un'esperienza abbastanza dolorosa è stata al liceo. Ho fatto il liceo in un convento di cistercensi e studiare tutto il giorno fino alle 5 del pomeriggio in un ambiente del genere, che per me era molto conflittuale, è stato fonte di dolore, di pensieri e di litigi, di conflitti che comunque mi hanno fatto star male, ma mi hanno anche fatto sperimentare nella letteratura, nella poesia. Il conservatorio, diciamo, è stato un luogo abbastanza felice, amicizie comunque ricche di serenità, e mi hanno creato appunto le prime esperienze musicali, i primi concerti, e mi hanno appunto sollecitato a pensare sempre che la mia strada non era solo la musica, ecco. Riguardo invece alle letture, sono andate avanti nel corso del tempo, ho sperimentato autori sempre più ricchi di filosofia, diciamo così. Nel tempo dell'università, quando mi sono iscritto al DAMS, ho dato diversi esami in filosofia teoretica e in estetica filosofica, mi sono avvicinato al pensiero di Heidegger, che è stato fondamentale per me, poi di Derrida e di Levinas. Sono autori che comunque sicuramente popolano le parole delle mie poesie. Finita l'università ho conosciuto la mia attuale compagna, sono andato a vivere a Milano. Milano ho avuto esperienze come correttore di bozze, in un'azienda come impiegato d'ufficio e alla fine ho creato una casa editrice che si chiamava Seconda Vista Edizioni. È stato importante l'incontro con un mio attuale amico che si chiama Matteo. Anche lui scrive e ci siamo contaminati a vicenda, una sorta di rapporto mentale, filosofico molto intenso in cui ancora oggi ci scambiamo ricchezze da approfondire, diciamo così. Dopo queste esperienze, come la casa editrice, che è stata chiusa nel 2016, ho iniziato a insegnare e tuttora insegno musica. E ho insegnato anche sostegno. La domanda che spesso mi pongo è perché scrivo? E perché alcuni mi chiedono anche come mai non pubblichi e non ti interessa pubblicare. Scrivo perché è un'esigenza abbastanza quotidiana, qualcosa che mi viene naturalmente, ecco. E scrivo per esprimere delle emozioni, dei momenti di sconforto, di confusione, e la vivo come un'esperienza privata. E quindi la pubblicazione non è mai stata nei miei pensieri in maniera così assillante, perché per me scrivere è qualcosa anche di terapeutico, diciamo così. Thank you. Eccoci qui, è arrivato il momento di ascoltare le belle poesie di Massimiliano De Santis. La proprietà del linguaggio che abuso meno è il verbo. Per questo le dinamiche del fuoco, del suono, dell'acqua, dell'aria le osteggio. Le svicolo coi nomi. Il malessere si eclissa accanto di ogni nome dei nostri esperimenti. Perché ogni soffio dei tuoi capelli è passato tempo fa e quando tornerà sarà continuamente perso. La tua voce invece è una lama permanente che frastaglia le mie decisioni e mi ricordi che vivere è veder morire un periodo, una nube, un abbraccio, un giorno, una corsa, un incidente. Oggi ho capito che ognuno ha una dose di dolore. La morte di chi conosce è già scritta e come reagirai è fotogrammato. È tutto racchiuso in un box. Lo apri e respiri tutto il dolore di una vita. Ne fai un momento che mescolerai mille tradimenti. Oppure, se sei pazzo, apolide, aspirante suicida, lo frazioni, lo sperperi con gli amici, lo sbrani da solo in un vicolo. Conosco e adoro il momento in cui si dovrebbe intervenire. Quello che perdo per non deludere un amico, quello in cui potrei vincere e invece mi compiaccio a perdere. Tremante di un piacere oscuro, quello in cui la mia vita ha un attimo di sospensione dalla morte. L'attimo senza cuore. Una foglia autunnale che cambia, impicchiata a un paesaggio. Un necrologio di una nascita indesiderata, maledetta, denutrita. Un'ascesa repentina verso la gioia. Le vite parallele non esistono, ma io le immagino per vivere meglio i sapori di questa vita. Sorseggio con parsimonia la morte che sin da ragazzi si diffonde, mentre giocano a calcio, si baciano, si masturbano, si salutano, si lasciano. Guardano la fine di un giorno. Irrido ai vecchi che cadono, alle loro cerimonie giornaliere, quando si abbracciano e piangono, e tra luce a chi guarda lontano, sospetta di essere un numero già estratto, mortuario, retorico. Se vedo dei fatti immaginati, non vuol dire che non esistono. Ci sono delle forme che le cose prendono. Lancio un cilindro che si fa pasta e pennino, mordi una pesca che ha una ferita riaperta. Quando pensi di creare qualcosa, forse è quella cosa che altro diverrà. Via da quel che volevi, un cambiamento entropico che non puoi dominare. Se scrivo una parola, il tempo la cambia. Se faccio un verso, qualcuno lo scambia. Forse è la mia che è sempre inaudita, fammi pensare che è un non senso la vita. Se ascolto i suoi passi e la sabbia maracas, Soffia nelle mie orecchie un andamento lento, una capigliatura entropica, un elisir di complicazioni, una vita condivisa. Senti, sono un uomo temporaneo, non dissimulo le mie mani di nuca per un quarto di vita, ma sintomo è ogni mia parola del dolore che aspergo da te. Certo che se il giorno schiuma l'orizzonte, non è per il mio abbandono, mica sperpero le tue gocce come frumento che lastrica questi passi miei, via dai tuoi pallori ansiosi. Sentimi partire e lasciati felice a guardare l'uomo ombroso, mai stato nei paraggi tuoi, solo uno sguardo, un pensiero, un frainteso. Sei così refrattario ai quadri, alle foto e alle immagini della vita passata. Per via di questa morte tu sempre la cerchi. Si smembra la gioia del vento tra di noi, cade il fuoco che arde le nostre cosce e tu pensi a lei, la morte che c'è ora. Sali le scale verso il punto che il mare osserva, un punto dove la vita ti ha fatto impazzire, il punto dove cerchi lo spazio del ricordo per sentirla, questa morte diluita nei nostri giorni. Sai che ti osservo, sono dappertutto. So dove andrai e penso a quel che penserai. Sbagliare è l'unica mia fuga, per questo tento e scrivo e allontano la tua morte. Si rasenta la vita mentre siamo via, a procurarci pienezza e lampi di dolore, e smussiamo le acredini del giorno perché amiamo il suo sibilo solitario. Grumo di suoni vitali mortificati, laterale questa allerta di vita persa, frontalmente inaffrontata, alambiccata, in audizione di echi dalla vita schietta. A volte penso che questo è lo sguardo del poeta, che prima si insozza e poi si solleva, sfrigolando le sue sfumature in un foglio. Allora, per oggi è tutto, cari amici. A risentirci alla prossima puntata con un nuovo autore e nuove letture.